Eccoci qua, socio, ottava tappa di questo viaggio alla ricerca dell'isola di Wight. Benvenuti agli ascoltatori di Radio Big World che avranno piacere di viaggiare con noi attraverso le nostre esperienze, attraverso il nostro vissuto in questo viaggio appunto alla ricerca dell'isola di Wight. Ottava tappa, siamo ancora a Southampton al Circle House, Guest House, che è una cosa che va molto molto per la maggiore da queste parti di mondo come tipo di ospitalità. È una specie di bed and breakfast, ma non è proprio un bed and breakfast, insomma, è una cosa un po' particolare. Praticamente siamo in una casa che sembra un labirinto. Stamani al breakfast, English breakfast, tipico per la prima volta durante questo viaggio, c'era una quantità di persone che io non avrei immaginato potessero entrare dentro questa struttura, ma insomma, ieri sera abbiamo passato la nostra prima serata a Southampton ed era sabato sera. Anche da queste parti al sabato sera è tutto un po' più vivo, è tutto un po' più partecipato e ci sono tante persone in giro per i posti, per i locali. Particolarmente allo Spitfire Pub, un tipico pub inglese, perché da queste parti di cose turistiche ce ne sono poche e ci sono molte cose tipiche. Abbiamo conosciuto Paul e Beth, con cui tu, socio, hai avuto un dialogo brillante, diciamo, da un certo punto di vista. Ma cosa ti hanno detto Paul e Beth? Paul e Beth si sono avvicinati a questi due ragazzetti, potevano essere altri, come c'erano in tutto il locale e in tanti altri locali che si è visto in tutta la città ieri sera, perché comunque sia, sai, sabato sera c'è tanto movimento e fine settimana. Paul e Beth si è fatto due chiacchiere parlando un po' di quello che è l'Italia, di quello che è l'Inghilterra, di quello che è più che altro Southampton, che pare sia una cittadina non carica di energia turistica, anche se insomma ci passano tante crociere, però ecco, di attrattive per rimanerci e soggiornarci come se fatto noi non ce n'è tante. Infatti è un punto di movimento questo qui. E questi due ragazzi conoscevano poco dell'Italia, come non si conosceva poco di Southampton, e ci hanno anche detto che avevi sbagliato a venire qui. Ma quello è relativo. La cosa deve colpire il fatto che si relaziona in maniera normale qui, cosa che ti meraviglia subito quando vai un pochino all'estero dopo essere stato tanto tempo da noi. Non è che siamo a raccontarsi cose logiche, con la logicità che siamo un pochino persa noi. Se in un locale la gente si diverte, c'è un minimo di musica alta, balla, fa chiasso, ho gruppi d'amici, amiche, e sono fuori a divertirsi di tutte le facce, colori, di bellezze fisiche di varia natura, e la gente è fuori per divertirsi. Il che deve meravigliare non è tanto aver parlato con due persone, è che dopo, cioè, la logicità persa da noi, quella che tu va fuori, tu conosci gente perché è normale non c'è gente, cosa che si è persa da noi. E poi uno torna da una vacanza in altri posti e dice: oh, no, ho trovato tutti gialli, verdi, rossi, talebani, vestiti lunghi, corti o stravaganti, cosa ci sarebbe anche da noi, però da noi non deve funzionare. Niente, meravigliati della grande razionalità e logicità delle cose. In effetti sì, è stato un siparetto carino con questi ragazzi che evidentemente, sorpresi dalla vista di due italiani in vacanza a Southampton, non hanno avuto all'inizio niente di meglio da dire se non ragù, bolognesi, lasagne, baffo nero e mandolino, insomma, di fantoziana memoria. Però ecco, quello è stato solo per rompere il ghiaccio, e in effetti il tempo passato a conversare con Paul e Beth è stato anche proficuo. Però non dimentichiamoci che abbiamo fatto un'esperienza molto gradita e molto, almeno per noi molto gradita e molto cercata. Vale a dire, siamo andati ad assistere dal vivo ad una partita di Premier League. Per l'appunto il Southampton giocava in casa il suo terzo turno di campionato contro il Leicester, e quindi abbiamo deciso di prendere i biglietti, questo già quando eravamo in Italia, per appunto assistere a questa partita. E assistere ad una partita in Inghilterra in effetti è una cosa un po' particolare, un po' perché Il pre-match, noi siamo andati allo stadio circa 4-5 ore prima della partita, ma più che altro per vedere dove era lo stadio. Ovviamente noi non lo sapevamo dove fosse, quindi come funzionava, anche per accedere, perché io mi immaginavo i poliziotti a cavallo, mi immaginavo quelle scene anni 80 e 90 che hanno contraddistinto nella mia perlomeno memoria di bambino il calcio in Inghilterra, quindi mi immaginavo come in Italia i super tornelli, i prefiltraggi, roba di questo tipo. E ci siamo resi conto già da molto prima della partita che allo stadio la situazione sembrava molto più serena. Abbiamo quindi deciso di visitare il quartiere che ospita lo stadio, che è il St. Mary's Stadium, e ci siamo imbattuti alla grande, con grande fortuna, in un pub di tifosi locali, di tifosi del Southampton, dove ci sono sì tifosi, famiglie però comunque, quindi gente adulta con i figli che giocavano a pallone fra di loro, gente più giovane, gente più sfasciata, gente più ordinaria, un po' di tutti i tipi. E il pub in questione è il Kingsland Tavern, che è a Southampton, non mi ricordo la strada, ma se vi capiterà di arrivare nella cittadina è veramente molto vicino allo stadio, in direzione, per intendersi, centro città. Quindi siamo stati lì un po' di tempo a gustarsi delle birre insieme ai tifosi locali, a farsi un ottimo fish and chips perché c'era rimasto la voglia dal giorno prima, e veramente è stato un grande fish and chips che addirittura ci ha saziato anche per la cena, abbiamo saltato a piedi pari la cena e poi ci siamo diretti verso lo stadio, e lì abbiamo notato delle cose molto diverse anche proprio nei minuti precedenti alla partita. Cosa hai notato tu, socio, che ti ha colpito particolarmente? Io nell'ambiente stadio lì a St. Mary, qui a Southampton, ho visto quello che è l'industrializzazione del calcio, il famoso modello all'inglese che sta bene qui in Inghilterra, non è adattabile in altri posti, con tutte le sue dinamiche, con l'incanalamento delle abitudini e delle passioni delle persone, il controllare il bere, perché allo stadio si può bere non sullo spalto ma sotto, dove ci sono gli ingressi, ci sono degli spazi molto grossi dove ci sono bar che vendono alcol. Hanno limitato totalmente il fumare, non si può fumare in nessun punto, neanche hanno creato aree per poter fumare, o perlomeno a prima vista io non l'ho visto. Si è visto quello che da tanto tempo se ne parla, il modello inglese, che probabilmente sta bene a loro, per come sono fatti loro, per come possano vederlo. E poi insomma, andare a vedere la Premier League è un grande show, con delle strutture, degli ambienti che si prestano probabilmente a vincolare le abitudini della gente. Magari le categorie più basse sono più spartane e non hanno magari degli spazi così grossi e delle probabilità di gestione diverse, ecco. In effetti io sono rimasto molto colpito dal fatto che è assolutamente assente la polizia. La polizia proprio non c'è nei dintorni dello stadio, dentro lo stadio non c'è. Ci sono un sacco di steward, almeno erano 20 o 30 steward dentro al nostro settore, ed era un settore limitato dello stadio, e in questi steward li vedevo in giro per tutto lo stadio, quindi un grandissimo numero di steward, tra l'altro molto cortesi, molto gentili. Siamo arrivati, ci hanno indicato qual era il nostro gate, ovviamente hanno voluto dare un'occhiata alla borsa che avevamo con noi, però insomma è una cosa normale questa, ma erano veramente molto gentili. Appena gli abbiamo detto che eravamo italiani in visita, venuti per vedere la partita, allora sì che ci hanno fatto le feste, praticamente ci hanno quasi steso un tappeto rosso. Poi una cosa che ho notato all'interno dello stadio, proprio sotto lì nella zona dove diceva il socio si può bere, c'è anche un baracchino per scommettere, proprio lì live in diretta su qualsiasi cosa, baracchino che alla fine del primo tempo si trasforma in bar, perché a chi prende un coupon, salta tutta la fila, va lì e si prende la sua birretta, che può bere però solo fino al decimo minuto del secondo tempo, dopo non si può bere più, dopo si beve a fine partita. Dicevamo, la polizia non c'è, non l'abbiamo vista, la polizia appare dopo a fine partita, dove la gente defluisce, dove le persone mischiate, tutti insieme, quelli di casa, quelli di fuori, magliette di un colore, magliette dell'altro, non ci sono grossi problemi. E insomma, dicevamo, lì poi ricomincia ad apparire la polizia, ricomincia a farsi vedere, ma molto discreta dalle parti, la gente va dove gli pare, non succede, se non succede niente la polizia ovviamente non dice e non fa niente. E praticamente così è passato il nostro sabato all'insegna della Premier League, che alla fine è stata un'esperienza molto interessante, molto bella, anche solo appunto per toccare con mano e vedere con i propri occhi quello che succede all'interno di questo grande circo, di questo grande show che è la Premier League. Cari amici, qua adesso è un tempo tipicamente inglese, ovvero piove come Dio la manda, anzi piove come Regina la manda. Quindi cercheremo di organizzarci, abbiamo un po' modificato i nostri piani per questo pomeriggio, ma vediamo cosa accadrà, vediamo cosa riusciremo a vedere, vediamo se magari riusciremo ad incontrare qualcuno. Oggi è domenica, non sappiamo assolutamente come sia la domenica dopo la festa, perché ieri sera vi garantiamo che hanno fatto una grande festa un po' tutti. Vediamo cosa ci proporrà. Vi aggiorneremo con la prossima puntata di Ma dov'è l'isola di Wight? Perché ovviamente noi andiamo sempre alla ricerca dell'isola di Wight. Probabilmente siamo molto molto vicini a capire come fare ad arrivarci. Grazie per averci ascoltato da me e dal socio, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e alla prossima tappa! Isola di chi? Secondo me.